Pugni chiusi, non ho più speranze, in me c'è la notte più nera. Occhi spenti nel buio del mondo, per chi è di pietra come me. Pugni chiusi per tutto, per sempre, non ha più ragione la vita. Il sole tiepido, se tu, amore, torna, torna qui da me. Pugni chiusi, non ho più speranze, in me c'è la notte più nera. Disegna il tuo viso per me. Oh, mari giunte, tu sei qui con me e abbraccio la vita con te.